Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note di Beethoven, dell'inno alla gioia, dell'inno dell'Europa, iniziamo il nostro incontro di questa sera, dove ovviamente parliamo di Europa e ringraziamo Lorenzo Binismaghi. Buonasera. Buonasera a Lorenzo Binismaghi. E Lorenzo Binismaghi, attualmente presidente della SNAM, è stato dal 2005 al 2011 membro del comitato esecutivo della BCE, è stato prima al Tesoro, poi in Banca d'Italia, una lunga esperienza di economista, ha scritto altri libri, l'ultimo prima di quello di cui parleremo anche stasera, Il paradosso dell'euro e Morire di austerità. Ma questa sera parliamo anche dell'ultimo libro, che è 33 false verità sull'Europa. L'Europa è in primo piano in questi giorni, in primo piano per le prossime elezioni per il Parlamento europeo. Non parleremo di politica, ma parleremo di Europa. L'Europa ci riguarda tutti da vicino. E allora la prima domanda per Lorenzo Binismaghi è: 33 false verità. Le false verità che cosa sono? Ma sono delle verità false, delle affermazioni che vengono ripetute e si sentono ripetere nei dibattiti, nelle discussioni, nei talk show, e diventano vere perché non sono contrastate da nessun altro e sono lanciate così spesso da antieuropeisti o persone che hanno una visione così un po' approssimativa delle cose e non essendo appunto poi confutate diventano delle vere e proprie verità, al punto che fanno parte oramai del linguaggio e del dibattito comune sull'Europa. Ecco, quindi riguardano un po' tutta l'Europa, dal fatto di essere dominata solo dai tecnici, da essere dominata dalla burocrazia, dal fatto che la Banca Centrale Europea è una banca che controlla tutto, che tutto dipende dalla moneta, che l'euro in pratica ha rovinato i paesi deboli, tanto per fare un sommario di queste verità in cui si articola, queste false verità in cui si articola questo libro. Ma io andrei con ordine, voglio parlare dell'Europa, e andrei con ordine magari guardando un po' la sua esperienza. Lei è arrivato da un'esperienza nazionale a un'esperienza europea. Come si immaginava l'Europa, la Banca Centrale Europea, e come l'ha trovata? Ma ecco, la Banca Centrale Europea è un'istituzione nuova, creata da zero, a cui io ho partecipato alla creazione, e devo dire che è una vera istituzione europea e sorprendente dal punto di vista italiano, per esempio, perché è un'istituzione dove ad esempio non ci sono quote di personale, cioè gli economisti, i funzionari, non è che ci sono un po' di italiano, un po' di tedeschi, vengono scelti sulla base del merito. E la cosa sorprendente anche, che fa molto piacere, ci sono molti italiani, perché ci sono molti italiani bravi che quando sottoposti al vaglio del merito emergono, e dunque nella Banca Centrale Europea, almeno quando c'ero io, dopo i tedeschi, che erano in gran numero perché, anche per motivi logistici, perché è a Francoforte, molte posizioni di vertice erano gli italiani. Ecco, quindi non lottizzata, anche se magari in termini nazionali, no, o regionali. I francesi erano un po' arrabbiati, anzi, perché loro erano pochi, per esempio. Però hanno avuto poi il presidente. Ora abbiamo un presidente italiano e molti direttori generali sono italiani. Ecco, questo è un po' in contrasto con l'Europa. L'Europa invece, per esempio il Parlamento Europeo, la stessa Commissione Europea, ha una rappresentanza, diciamo così, democratica in fondo, perché tutti sono rappresentati in modo equanime. Quindi è un po' vero quello che si dice, che la BCE è un organismo un po' tecnocratico, sì, rispetto, sì, a un organismo democratico. Sì, parlo dello staff, cioè delle persone che vi lavorano. Il Parlamento Europeo, lì però bisogna distinguere, perché è vero che tutti sono rappresentati, però poi bisogna partecipare alle riunioni, ai lavori, e da questo punto di vista lì l'Italia forse è un po' deludente, perché spesso manda a Bruxelles o a Strasburgo persone, o eleggono, gli italiani eleggono persone che spesso poi non ci vanno. Una lunga tradizione, abbiamo avuto dei commissari europei che sono tornati in Italia per fare i ministri. Quello è un po' triste, quello, perché poi la capacità di incidere di un paese dipende dalla presenza nelle commissioni, cioè è un Parlamento vero, bisogna stare lì nelle commissioni parlamentari, lavorare insieme agli altri, ecco, anche lì fare campagna elettorale contro gli altri, e poi rischia di essere un po' pericoloso, perché poi ci si ritrova accanto. Ecco, in questo senso appunto un Parlamento vero, un Parlamento che ha dei poteri, però i veri poteri restano ancora a livello europeo, quelli della Commissione e del Consiglio europeo, della Commissione formata appunto da commissari di ogni singolo paese, del Consiglio europeo che è formata dai ministri che si riuniscono periodicamente per decidere appunto sulle cose europee. Questa realtà europea è in evoluzione comunque verso una situazione più rappresentativa in senso anche dell'efficienza delle istituzioni europee? Ma l'efficienza non lo so, ma sicuramente della democraticità, diciamo. Ora abbiamo visto il dibattito sull'unione bancaria, lì il Parlamento europeo ha bocciato inizialmente la proposta dei ministri. C'è stato un lungo negoziato, alla fine hanno trovato un compromesso, però il Parlamento europeo vuol contare e se queste elezioni porteranno a una chiara indicazione su chi sarà il prossimo presidente della Commissione europea, li sappiamo, sono Schulz, Juncker, Verhofstadt, se sarà uno di questi tre avrà un mandato diretto, quasi diretto dal popolo, e quella sarà un'evoluzione democratica del Parlamento e dell'intera Unione Europea. Per questo queste elezioni sono importanti. Ecco, sono importanti indubbiamente anche un po' per far riflettere sull'Europa, riflettere su questa realtà europea, una realtà europea che è, guardiamo un po' dall'Italia, ha avuto degli alti, l'Italia è stato un grande paese europeista, un grande paese fondatore dell'Europa, e dei bassi, adesso forse siamo un po' sul basso, sull'eurodelusione. Come mai questa eurodelusione? Ma un po' questo, lo Ciampi lo diceva all'inizio dell'euro, diceva: guarda, state attenti, non è il paradiso l'euro, perché vuol dire, in parte ci protegge, ma poi in parte dobbiamo ancora continuare a lavorare, a fare le riforme, a modernizzare il nostro paese. Invece noi abbiamo pensato che entrare nell'euro era il paradiso, potevamo tirare i remi in barca e eravamo protetti, diciamo, dalle sfide della globalizzazione. In realtà questo immobilismo di questi anni ha portato l'Italia ad arretrare ed essere ora in grandi difficoltà, perché gli altri paesi hanno fatto le riforme, noi no, e infatti si vede che siamo il paese che cresce di meno. Ecco, c'è un capitolo di questo libro, che lo ricordo, le 33 false verità sull'Europa edito dal Mulino, in cui si parla proprio del momento iniziale. Il cambio dell'euro è ancora messo sotto accusa, sì. A 15 anni di distanza abbiamo accettato un cambio troppo forte, per la dire. Sì, ma ecco, questa è un'altra, questo proprio fattualmente è una falsa verità. Ancora io quando vado in giro a presentare questo libro mi si chiede: ma quel cambio euro-lira, ma non si poteva fare uno a uno? Cioè, allora cerco di spiegare perché non poteva essere altro che così, anche perché uno dei criteri di convergenza per entrare all'euro era 2 anni di stabilità dei rapporti di cambio, bassa inflazione, bassi tassi di interesse. Dunque c'era un equilibrio complessivo da rispettare. Se avessimo cambiato quel tasso di cambio, poi magari avremmo avuto un'inflazione più alta, per cui non saremmo entrati. Dunque è stata una decisione che non... Cioè, pensare che il resto dell'Europa prenda decisioni folli, un altro capitolo è sul fiscal compact, ma magari certo, ci torniamo, però pensare sempre che l'Europa prenda decisioni folli e che noi poveri italiani siamo vittime di queste decisioni è un po' il complesso del complotto molto italiano. Ecco, ha citato il fiscal compact, non possiamo non tornarci, perché una delle cose che si dicono in questo momento è quello: ma l'Europa ci imporrà un risparmio di 50 miliardi all'anno per 20 anni per riuscire a soddisfare queste esigenze di stabilità e di austerità. Sì, appunto. Allora, ci sono due soluzioni: o l'Europa è sadica, oppure qualcuno non ha letto il fiscal compact, è più probabile questa seconda ipotesi. In realtà il fiscal compact è uno strumento molto flessibile che tiene conto della situazione economica, anzi per un paese in difficoltà come l'Italia, che cresce poco ed ha un alto debito, consente un percorso di rientro di questo debito che tiene conto del momento di difficoltà come quello attuale. E se si va a vedere poi alla fine i numeri, l'obiettivo per un paese come l'Italia è un disavanzo al netto degli effetti ciclici tra 0,5 e 0, noi siamo molto vicini, siamo a 0,6-0,7, dunque siamo già molto vicini a rispettare il fiscal compact. Quindi non c'è bisogno di fare drammi, anche, e non c'è bisogno poi di dire che l'Europa ce lo impone, in fondo dovremmo imporcelo noi per essere coerenti e per imporre su basi un po' più solide anche lo sviluppo economico. La politica italiana per tanti anni ha visto l'Europa come il vincolo esterno, no? Noi abbiamo bisogno di un vincolo esterno perché le nostre istituzioni non erano in grado di darsi la disciplina. Questa strategia non funziona, perché alla fine, se uno questo vincolo poi diventa troppo forte, c'è una reazione contro il vincolo. Infatti, alla fine, molte di queste discussioni che facciamo in Italia, alla fine finiscono sempre: ma certo, in Europa, se ci dessero un po' più di margini per fare un po' più di spesa, come saremmo tutti felici. Però poi sotto sotto pensiamo: ah, speriamo che non ce lo diano questo margine, perché poi tutto questo debito, chi è che lo ripaga? E in questi anni, paradossalmente, l'Italia si è chiusa rispetto al resto del mondo, non ha capito che il mondo cambiava, che questa sfida globale andava affrontata con dei cambiamenti che altri paesi hanno fatto. Chiudersi in se stesso e pensare che il resto del mondo è tutto negativo, è tutto brutto, e magari complotta contro l'Italia, sì, e poi pensare di uscire poi dall'euro, dall'Europa, che, ecco, affrontando questo è un tema. Uscire dall'euro è possibile, sarebbe possibile. Ne parliamo tra poco. Incontri. Ancora con l'inno alla gioia, con l'inno Europa, riprendiamo il nostro incontro con Lorenzo Binismaghi. Lorenzo Binismaghi, attualmente presidente della SNAM dal 2005 al 2011, membro del comitato esecutivo della BCE. Abbiamo parlato dell'Europa, anche sulla base del libro che Lorenzo Binismaghi ha scritto, 33 false verità sull'Europa. E nella prima parte abbiamo un po' percorso i problemi europei, da quelli della Banca Centrale, del Parlamento, dell'esecutivo, della forza dell'Europa, ed eravamo arrivati a un punto, direi, di fondo: l'euro, la moneta così in fondo contestata negli ultimi tempi. Viene imputato all'euro di essere una moneta che un po' schiaccia le economie deboli, e qualcuno in questa campagna elettorale soprattutto dice: usciamo dall'euro. Allora c'è un problema politico, ovviamente. Uscire dall'euro politicamente è possibile, si può fare tutto, si può uscire dall'Europa, le democrazie possono decidere tante cose, però ci sono anche dei problemi tecnici. Allora, Lorenzo Binismaghi, uscire dall'euro, se un popolo lo vuole, non glielo si può impedire, ma che cosa vorrebbe dire? Sì, a parte che il popolo non penso che lo voglia, non l'ha voluto in Grecia, perché alla fine tra la moneta buona e la moneta cattiva, i risparmiatori, i cittadini scelgono la moneta buona, non scelgono la moneta cattiva che si svaluta e dunque rischiano di perdere parte dei loro risparmi. Dunque stiamo parlando di teoria, però va bene, insomma, se vogliamo parlare di teoria, forse dobbiamo anche capire che chi ci porta a discutere di queste cose poi fa sì che non discutiamo delle cose vere, però discutiamo di queste ipotesi, tanto per perdere un po' di tempo. Però ecco, il problema è che se dobbiamo riconvertire i nostri euro in monete diverse, alla fine innanzitutto non credo che lo Stato può obbligare i cittadini nelle loro transazioni, rapporti economici a cambiare. Dunque probabilmente se l'Italia decidesse di uscire dall'euro, in realtà diventerebbe un paese a doppia circolazione. A meno che di uscire anche dall'Europa. A meno che, probabilmente, perché uscire dall'euro vuol dire innanzitutto cominciare a obbligare i cittadini il più possibile a tenere lire. Vuol dire mettere controlli sui capitali, impedire di utilizzare appunto diversi strumenti finanziari. Vuol dire obbligare anche le banche a investire in titoli di Stato, perché chi comprerebbe titoli di Stato a un tasso di interesse così elevato nell'aspettativa che questa lira si deprezzi? Dunque torneremo agli anni 70, cioè molti infatti dicono: ah, che bello gli anni 70, poi si dimenticano che quelli erano gli anni di alta inflazione e alta disoccupazione. Anche perché gli altri paesi non starebbero a guardare di fronte a un'Italia che potrebbe recuperare competitività attraverso la svalutazione, però loro potrebbero a quel punto imporre dei dazi sulle merci italiane. Sì, no, ma gli anti-europei degli altri paesi, la Marine Le Pen per esempio dice: anch'io voglio uscire dall'euro per svalutare il franco e far aumentare le esportazioni. Se tutti fanno così, torniamo a quel disastro degli anni 30, proprio in cui tutti rincorrevano la svalutazione invece di cercare di cooperare e lavorare insieme per uscire dalla crisi. Ecco, in questa prospettiva tecnicamente sarebbe un problema molto grosso, anche perché andare da una moneta debole a una moneta forte, come è stato dalla lira all'euro, se è stato possibile farlo con una transizione pilotata, andare da una moneta forte a una moneta debole creerebbe sicuramente dei grandi problemi anche tecnici e anche di gestione corrente di queste cose. Vi ricordate nel 92, quello era un fenomeno abbastanza limitato, ma c'erano molte famiglie che avevano contratto dei debiti in ECU per mutui per la casa e si trovarono a un certo momento con i loro debiti aumentati del 20%. Ecco, tutti quelli che hanno contratto debiti in euro con non residenti, dunque con persone che comunque non cambieranno i loro contratti, lì si troverebbe il sistema bancario, il sistema, cioè le imprese, tutte le imprese che oggi si finanziano sui mercati dei capitali andrebbero in bancarotta, cioè sarebbe un disastro per l'economia italiana, ma io penso che anche chi oggi propone l'uscita dell'euro questo lo sa. Il mio timore è che tutta questa discussione ci devia invece dai problemi veri dell'Italia, che non sono quelli di uscire dall'euro, ma di fare le riforme, di cambiare la nostra economia per essere competitivi. Ecco, ma in questo senso si è discusso anche questa settimana, e non tanto in Italia, anche del fatto che l'euro è una moneta troppo forte. L'euro complessivamente si è rivalutato rispetto al dollaro, sì, rispetto allo yen, rispetto al franco svizzero, che peraltro poi si è agganciato all'euro con una propria politica nazionale da parte della Banca Centrale. Ma la Banca Centrale Europea ha la possibilità e ha magari anche il dovere di controllare il cambio? Questo è un po' il paradosso. Perché l'euro si è apprezzato? Perché in questa fase economica in cui gli investitori cominciano ad avere un po' paura dei paesi emergenti, c'è una minor liquidità, e hanno riscoperto l'Europa, che l'Europa, l'economia europea va un po' meglio, non molto meglio, ma va un po' meglio, però è un safe haven, cioè un posto dove si può investire, dove ci sono aziende competitive. In fin dei conti il rischio di paese dappertutto, anche in periferia dell'Europa, si è ridotto. Dunque stanno riscoprendo l'Europa, hanno fiducia in Europa, forse il resto del mondo ha più fiducia in Europa degli europei, e questo tiene sul cambio. Questo dovrebbe essere contrastato da una politica monetaria molto espansiva, e questa è un po' la direzione che sta prendendo la Banca Centrale. Non è detto che poi alla fine questa politica monetaria più espansiva risolva la situazione, perché si è visto anche in passato, ogni volta che la Banca Centrale prendeva delle decisioni favorevoli all'Europa, anche nel senso espansivo, poi alla fine gli operatori dicevano, beh, insomma, in fin dei conti questo aiuta l'Europa, dunque continuiamo a investire, sì, in Europa. Dunque c'è una specie di effetto perverso, c'è un po' troppa fiducia forse nell'euro. Un po' troppo effetto monetario, ma forse anche perché l'Europa ha dimostrato di essere riuscita a superare una crisi molto forte, quella del 2011-2012, lei l'ha vissuta all'interno della Banca Centrale. Qual è stato il momento più delicato? Ma il problema di queste crisi è che la Banca Centrale ha un enorme potere, perché intervenendo può calmare i mercati. Però non ha la soluzione definitiva, perché in fin dei conti la fiducia per i mercati deve essere data dalla politica, dai governi. Allora la Banca Centrale può calmare i mercati, ma calmando i mercati toglie anche un po' la pressione dai governi di prendere azioni decisive, sia nel rafforzamento istituzionale dell'Unione, sia anche in termini di politica, certo, economica. Nell'estate del 2011, per esempio, fu una decisione molto complicata, quella di se intervenire o no su titoli di Stato italiano. E lì si è visto che subito dopo l'intervento per comprare titoli di Stato italiano che stabilizzò il mercato, la pressione sul governo italiano si allentò e si rimandarono molte decisioni. Per cui c'è un po' questa forza della Banca Centrale, va calibrata per evitare di togliere tutte le responsabilità dai governi e da chi, dalla politica vera. Però sembra quasi un paradosso che la forza della Banca Centrale sia anche quella di intervenire senza intervenire. Basta dire che si potrà intervenire per avere degli effetti sui mercati. Questa è la credibilità effettivamente di una Banca Centrale, cosa che forse la politica non ha. Però alla fine, appunto, diciamo tutti, l'Europa è troppo burocratica. In realtà l'Europa non... manca la politica in Europa. Ecco, la politica non può essere delegata alla moneta. La moneta è importante, ma resta uno strumento. Resta, sì, uno strumento che deve essere uno strumento gestito poi da persone che di questo strumento fanno un uso positivo. Ecco, proprio nei giorni scorsi all'assemblea della Consob, il cardinale di Milano, Angelo Scola, ha ricordato come il mercato non sia qualcosa di astratto, di tecnico, ma è un dato culturale, un dato di cultura. Quindi una cultura che deve fare il mercato, e la cultura la fanno le persone. In questo senso anche occuparsi di moneta può voler dire riscoprire la forza, direi l'identità e la capacità di intervenire di ogni persona. Il mercato alla fine è fatto anche di fiducia, di rapporti di fiducia, perché uno investe in qualcosa non sapendo bene come andrà a finire, no? E dunque ci si fida l'uno dell'altro, e l'Europa ha passato dei momenti in cui non c'era la fiducia sia all'interno dell'Europa sia tra il resto del mondo dell'Europa. In parte questa fase è stata superata, però ecco, non bisogna pensare che questa euforia dei mercati oggi che porta lo spread ora non mi ricordo quant'era, 150, cioè, tutti dicano ora è finita la crisi. No, perché i fondamentali, c'è ancora molto lavoro da fare, ecco, perché c'è una fiducia che questo possa essere fatto, ma poi bisogna farlo, perché sennò se i mercati si girano, certo, la fiducia si perde in 5 minuti. Ecco, ma in questa prospettiva c'è anche un tema che è quello del fatto che la BCE, che poi è riconosciuta come un organismo che funziona, no? Si occupa solo di moneta, mentre la Banca Centrale Americana si occupa anche di economia reale, ha anche l'obiettivo di ridurre la disoccupazione. Beh, diciamo che la Banca Centrale Statunitense non è che si occupa di occupazione, però dice io manterrò una politica espansiva fin quando la disoccupazione non scende. La Banca Centrale Europea ha un obiettivo più semplice, però alla fin dei conti non è incompatibile, perché oggi l'inflazione è più bassa dell'obiettivo. L'obiettivo della BCE è il 2%, certo, e noi siamo sotto l'1, e dunque c'è uno spazio per essere più espansivi, anche perché la disoccupazione è alta in Europa. Dunque le due cose sono coerenti, non sono incoerenti. È un modo di comunicare, diciamo, più che di giustificare la propria politica, più che una politica molto diversa. In realtà ora stiamo vedendo che gli Stati Uniti stanno cominciando a restringere le condizioni monetarie mentre l'Europa continua ad espanderle. Dunque non c'è niente in Europa che impedisca di fare una politica espansiva. Ecco, abbiamo parlato appunto del suo libro 33 false verità sull'Europa, edito dal Mulino. Ecco, Lorenzo Binismaghi, dopo qualche mese di aver finito questo libro, c'è una 34esima falsa verità che adesso penserebbe di dover aggiungere a questi capitoli del libro, un tema su cui forse meritava insistere un po' di più rispetto a quanto ha fatto in questo libro? No, poi vedendo anche un po' la campagna elettorale, ora non discutiamo di politica, però ecco, la 34esima falsa verità è che queste elezioni porteranno una maggioranza di anti-europeisti a Strasburgo e a Bruxelles, cosa che non è vera. Anzi, gli anti-europeisti saranno una minoranza importante, che faranno sentire la loro voce, però io penso che quei paesi, più anti-europeisti i paesi manderanno in Europa, e più deboli saranno quei paesi nel portare avanti certe posizioni, certe idee d'Europa, certi cambiamenti. Credo che come in tutti i parlamenti bisogna mandare persone che innanzitutto sono presenti e lavorano lì, ma poi anche danno un contributo per cambiare e far andare avanti Europa. L'Europa non è perfetta, è un processo, certo, che va costruito. Gli Stati Uniti ci hanno messo 150 anni per fare un sistema fiscale integrato. L'Europa ha una lunga strada, bisogna lavorarci, essere lì, portare avanti tutti i giorni le idee, il lavoro, l'impegno, e così l'Europa cambia. Se guardiamo indietro negli ultimi 3 anni, l'Europa è cambiata molto e deve cambiare ancora molto. Ecco, la perfezione non è nella realtà delle persone, però il capire gli errori, cercare di superarli, certo, sicuramente deve essere un po' la nostra portata. L'Europa può aver fatto tanti errori, può aver fatto tanti sbagli, è un insieme certamente difficile, però le alternative sarebbero sicuramente peggiori. No, ma insomma, pensare di uscire un po' come i genitori che tolgono i figli dalle scuole quando vengono bocciati, pensando che se li iscrivono a una scuola meno buona fanno il bene del loro figlio, no? E pensare di uscire dall'Europa è un'illusione, che da soli riusciremo a far meglio. L'Europa va cambiata, un'Italia più forte può cambiare l'Europa. Dunque le cose cambieranno in Europa quando l'Italia sarà più forte, avrà fatto dei cambiamenti, avrà riformato, avrà un'economia più dinamica. Grazie a Lorenzo Binismaghi, grazie anche grazie per questo augurio, di avere un'economia che sappia riprendersi, che sappia rispondere anche alle domande soprattutto dei giovani. Grazie a Lorenzo Binismaghi, ricordiamo tra l'altro questo libro 33 false verità sull'Europa, che edito dal Mulino, in cui si possono appunto raccogliere tanti elementi aggiuntivi rispetto a tante cose che si dicono molto superficialmente sull'Europa. Ringrazio anche Carmelo Lauricella in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.